Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltrattamenti sui bambini e frode ai domiciliari, la rappresentante di una cooperativa che gestisce un asilo nido nel Goriziano. A fuoco un materasso nel carcere di Gorizia, evacuati detenuti, 10 intossicati, è grave l'autore del rogo. Ancora senza esito le ricerche del diportista friulano che non è riemerso dopo un tuffo dalla barca a Lignano. Montecroce inizia la bonifica con esplosivo della frana che da dicembre ostruisce la 52 bis Carnica verso l'Austria. In consiglio regionale è iniziato l'esame della manovra estiva da oltre 1.300.000.000, già 500 emendamenti. Rimandare il regolamento sulla tracciabilità del legno, lo chiedono le aziende del settore arredo di Confindustria FVG. De Ori, il comune di Trieste incassa 4.500.000 di euro all'anno, ma da oggi sanzioni più pesanti per chi non rispetta la sicurezza. Una serata in musica per raccontare i 100 anni dell'Università di Trieste, concerto per la città in Piazza Verdi. 12:31, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio con la cronaca ai domiciliari. La rappresentante di una cooperativa che gestisce un asilo nido dell'Isontino a suo carico le accuse di maltrattamenti sui bambini e frode. L'indagine era partita nel marzo scorso da alcune segnalazioni dei genitori e i militari del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri di Udine, coadiuvati dal comando provinciale di Gorizia, erano intervenuti con telecamere e microfoni nascosti all'interno di un asilo nido privato della provincia di Gorizia. L'attività investigativa, coordinata dal sostituto procuratore del capoluogo isontino Gianmarco Maffei, ha consentito di documentare numerosi episodi di maltrattamenti ai bambini in età compresa tra 1 e 3 anni. Inoltre, ulteriori approfondimenti investigativi hanno appurato una serie di frodi a danno di diversi enti pubblici convenzionati con l'asilo, frodi perpetrate facendo figurare forniture di pasti superiori a quelli effettivamente erogati. Le fonti di prova ottenute dai carabinieri del NAS e rese particolarmente rilevanti dalla tenera età dei bambini coinvolti hanno quindi portato il giudice per le indagini preliminari di Gorizia ad emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di una delle maestre dell'asilo, che è la rappresentante legale della cooperativa che lo gestisce. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori profili di irregolarità nella conduzione della struttura. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incendio è stato appiccato all'interno del carcere di Gorizia la scorsa notte. Un detenuto ha dato fuoco al proprio materasso e il fumo ha invaso i locali della casa circondariale. Si è reso necessario l'intervento degli agenti di custodia per circoscrivere le fiamme e mettere in salvo i detenuti. Sul posto sono intervenuti sanitari con diverse ambulanze. Una decina di persone, 4 detenuti e 6 agenti di polizia penitenziaria sono stati ricoverati negli ospedali di Gorizia e Monfalcone per l'intossicazione da fumo. Il più grave è il detenuto che ha appiccato l'incendio, accolto in rianimazione. Un altro è stato trattenuto in ospedale per accertamenti e gli altri sono stati subito dimessi. L'uomo ha dato fuoco a ciò che aveva in cella, provocando un fumo interno al carcere che ha comportato l'evacuazione del reparto detentivo e lo spostamento per sicurezza degli altri detenuti nel cortile passeggi, ha confermato il segretario regionale del SAP Giovanni Altomare. Si era pure barricato all'interno e il provvidenziale intervento dei poliziotti gli ha salvato la vita. 4 detenuti e 6 agenti intossicati sono stati portati in ospedale anche con il supporto di polizia e carabinieri. Eroici gli agenti intervenuti, così li ha definiti Altomare, anche grazie al supporto di colleghi che non erano in servizio. La polizia penitenziaria in servizio a Gorizia, dunque con non poche difficoltà, è riuscita ad evitare il peggio, ha concluso il segretario del SAP. Continuano le ricerche dell'imprenditore friulano Loris Chittaro, 63 anni, disperso in mare dalle 16:30 di ieri a Lignano, quando l'uomo si è tuffato da dalla sua barca. Sono impegnate al momento la motovedetta della Guardia Costiera, un battello e una motovedetta della Guardia di Finanza, e dalle 10 ha cominciato a sorvolare la zona anche l'elicottero della Guardia di Finanza. Ieri sera si era alzato in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia. Le ricerche non si sono mai interrotte, nemmeno durante il temporale di ieri sera. Dell'uomo però non c'è ancora traccia. Esplosioni controllate sulla strada di Passo di Montecroce. La statale 52 Biscarnica verso l'Austria è stata interessata da una frana all'inizio dello scorso dicembre. Uno sperone roccioso di circa 500 metri cubi rimasto pericolante dopo la frana dello scorso 2 dicembre che incombe sulla viabilità tra la Valle del But e l'Austria e minaccia la già colpita strada statale 52 bis. È staccato dal versante della montagna da una frattura verticale di 50-70 cm e tra meno di mezz'ora verrà abbattuto con l'utilizzo di 150 kg di esplosivo, diviso in microcariche ripartite in oltre 50 fori. Cadranno a terra 200-300 metri cubi di roccia. Già da stamattina tutta l'area è interdetta. Alcuni droni sorvolano la zona per verificare che non ci siano persone. Poi il suono di una sirena precederà l'esplosione. È dallo scorso 20 maggio che una decina di rocciatori specializzati lavorano sulla parete lungo il versante della montagna. Per installare le cariche di esplosivo è stato necessario realizzare preventivamente una nuova via ferrata e consolidare il versante adiacente all'area di demolizione con chiodature di più di 8 metri e funi. Che cosa succederà dopo il boato di oggi? Si chiedono gli abitanti di Paluzza, alcuni accorsi a curiosare tra i tornanti chiusi dai blocchi stradali delle forze dell'ordine. Il programma di ripristino della viabilità, dopo la maxi frana da 50.000 metri cubi di dicembre, prevede altre esplosioni minori nei prossimi mesi, la rimozione del materiale franato e poi l'installazione di nuove barriere paramassi. Infine, il ripristino della sede stradale danneggiata dallo smottamento. La riapertura avverrà entro l'anno, assicura l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. A sperarlo sono soprattutto i residenti di Timau, rimasta priva della clientela austriaca al di là del passo e di un collegamento fondamentale per oltrepassare il confine. Passo Montecroce Carnico, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Vittima del maltempo un 80enne di Rive d'Arcano, deceduto dopo 3 giorni di agonia, schiacciato dal portone della sua azienda agricola venerdì sera. Il portone era uscito dai cardini mentre l'anziano cercava di chiuderlo per proteggersi dall'ondata di maltempo che si era abbattuta sulla zona. E ha fatto in tempo ad atterrare all'aeroporto di Catania il volo diretto Ryanair partito stamane da Trieste, poco prima che lo scalo siciliano venisse chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La chiusura sta comportando il dirottamento di alcuni voli al Vicenzo Florio di Trapani Birgi e la cancellazione di molti collegamenti. Diamo uno sguardo al tempo, nuvolosità variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. Trieste 30,5 gradi, il mare è poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 32, a Udine 28, Pordenone 27 gradi, a Tarvisio 23,5 gradi, a Tolmezzo 23, a Forni di Sopra 20, Piancavallo 19,5 gradi e a Sappada 17. Sul Monte Zoncolana abbiamo 15 gradi, ci spostiamo sulla costa dove a Grado ci sono 30 gradi, a Lignano 29,5, la temperatura del mare è di 27 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura variabile. Sulla zona montana cielo da variabile a nuvoloso, saranno probabili rovesci o temporali sparsi che potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Domani sulla costa cielo sereno, sulla pianura poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile al pomeriggio quando sarà possibile qualche rovescio o temporale. Sulla costa soffierà borino, specialmente di notte e al mattino. E si contano i danni tra Casarsa e San Vito al Tagliamento dopo le forti precipitazioni di ieri sera che hanno causato l'esondazione di 2 corsi d'acqua allagando cantine, garage e scantinati. In poco tempo sono caduti 110 mm metri d'acqua. La rete idrografica minore è andata in crisi, impegnata fino a tarda notte anche la protezione civile, gli operai comunali e la polizia locale, oltre i vigili del fuoco. Vigili del fuoco che sono intervenuti dopo aver ricevuto decine di chiamate per allagamenti e alberi caduti anche a Lignano, nella Bassa Friulana, Fiumicello e Villa Vicentina. Iniziata in Consiglio regionale la discussione sulla manovra di assestamento, già 500 gli emendamenti presentati, via libera per giovedì. Se il bilancio statale ha ben pochi margini di manovra, quello della regione continua ad allargarsi senza che sia fatto nuovo debito. A ogni seduta si battono nuovi record e questo assestamento estivo non fa eccezione con il suo 1.300.000.000 di dotazione. Anche la manovra del 2025 potrebbe espandersi ulteriormente. L'assessore alle finanze Barbara Zilli. È presto per dirlo, però il trend che abbiamo registrato in questi anni ci ha permesso di innalzare le entrate e questo ci permette di essere fiduciosi anche per l'anno prossimo. Tre quarti dell'assestamento sono dedicati agli investimenti. Tra le misure di spesa corrente, l'aumento del contributo per l'abbattimento delle rette delle case di riposo. Secondo l'opposizione si può fare meglio. Andrea Carli, relatore di minoranza del Partito Democratico. Mancano parole come povertà, come potere d'acquisto e come emarginazione. E da questo punto di vista è una manovra che punta molto allo sviluppo, ne siamo molto felici, ma va integrata con degli emendamenti. Emendamenti presentati che sono circa 500 finora e che protrarranno la discussione a lungo. Dalla maggioranza non si chiude la porta a priori al confronto, ma con determinati paletti. Il relatore di maggioranza, Alessandro Basso, di Fratelli d'Italia. Sicuramente le proposte che arriveranno da qualsiasi parte saranno valutate e saranno, come dire, valutate nella loro coerenza rispetto al nostro progetto politico che è esplicito e dichiarato. La discussione generale iniziata oggi andrà avanti presumibilmente per tutto il giorno. Questo permetterà di presentare gli ultimi emendamenti domani mattina. Giovedì è atteso il via libera definitivo della seconda legge dell'anno più importante dal punto di vista del bilancio regionale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina c'è stata una protesta della CGIL Funzione Pubblica in piazza Oberdan a Trieste, ribadito che l'aumento del 6% delle risorse per il rinnovo del contratto del comparto unico è insufficiente alla luce dell'inflazione degli ultimi anni e dei contratti conclusi nel privato. Quanto messo sul piatto dall'assessore regionale Roberti è fondamentalmente in linea con il nazionale, ha ribadito la segretaria regionale Orietta Olivo, ma il periodo di vigenza del contratto 2022-2024 ha visto un'impennata di inflazione al 16% in tre anni. Inoltre, i contratti chiusi nel privato hanno valori più alti, come quello delle cooperative sociali, che si attesta al 12%. Al di là delle risorse contrattuali, la Regione ha messo 5.700.000 euro per il salario aggiuntivo, ovvero per coprire la differenza fra dipendenti regionali e quelli degli altri enti locali, una cifra importante e apprezzabile, conclude la CGIL, chiedendo però di fare qualcosa in più sul piano delle risorse. Il settore legno della Confindustria protesta anche in regione per la nuova normativa europea che impone regole più stringenti sulla tracciabilità del legno per produrre i mobili. Un rinvio dell'attuazione del nuovo regolamento europeo sulla tracciabilità dei materiali che provengono dalle foreste è quello che chiedono le imprese del settore del legno, che lamentano il rischio di una perdita di competitività. Approvato a Bruxelles 14 mesi fa, il regolamento EUDR punta a contrastare il disboscamento illegale e il commercio a esso associato. E oltre al settore del legno, riguarda quelli della carta, dei pellami, della gomma e di prodotti agricoli come caffè, cacao o soia. In particolare, il regolamento prevede che di tutti i componenti di un prodotto finito sia certificata la provenienza e la filiera. Un impegno burocratico e finanziario molto gravoso, in particolare per le aziende più piccole. Alessandro Fantoni, capogruppo legno, mobile e sedia di Confindustria Udine. Inoltre la piattaforma e il database che sarà messo a disposizione delle aziende per garantire la tracciabilità sarà accessibile solamente a partire dai primi di dicembre e il regolamento diventerà cogente col 30 dicembre 2024, il che non consente alle aziende di adottare le giuste contromisure, le giuste attività. Anche per questo le aziende del settore, spalleggiate da una ventina di ministri dell'agricoltura di paesi UE, chiedono di posticipare l'avvio delle nuove norme e sollevano un altro problema: la mancata collaborazione dei paesi extra Unione Europea come Cina o Indonesia, che in molti casi si rifiutano di condividere le informazioni sulla tracciabilità. Gli Stati Uniti anche loro chiedono all'Europa di ritardare l'applicazione di questo regolamento, come anche altri stati, dalla Grecia all'Austria, Lituania, Finlandia, Italia e altri stati europei, il che fa capire che siamo in grossa difficoltà. Udine, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, la firma dell'atto d'impegno del contratto di fiume Alto Olivenza, di cui Sacile è comune capofila. L'intesa coinvolge anche i municipi di Budoia, Brugnera, Caneva, Fontana Fredda, Polcenigo, Prata di Pordenone e i due veneti posti a monte della confluenza dell'Ivenza con il fiume Meduna, cioè Gaiarine e Porto Buffolè. Più di 30 enti e associazioni hanno deciso di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo, il cui iter è stato avviato nel 2020 e che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione dell'intero ambito territoriale del fiume Livenza nel Friuli occidentale, coniugando la gestione e la salvaguardia dai rischi idraulici con lo sviluppo socio-economico. A Trieste c'è un nuovo regolamento sui DEOR, non cambiano le tariffe per occupare il suolo pubblico, ma si cerca di ridimensionare lo spazio occupato dalla pandemia in poi. Sanzioni più pesanti quindi per chi non rispetta gli spazi di sicurezza, ad esempio nei casi in cui sedie e tavolini dei bar ostacolino il passaggio dei mezzi di soccorso. Sentiamo l'intervista alla vice sindaca del comune di Trieste, Serena Tonel. Vice sindaco Serena Tonel, cosa cambia per i DEORS e da quando? Dunque, il regolamento entrerà in vigore il 4 di agosto, ma ci sarà tempo fino al 31 dicembre del 2025 per, diciamo, adeguarsi alle novità. Sicuramente la novità più significativa è quella dell'apparato sanzionatorio, che prevede anche la revoca rispetto a quelle che sono le occupazioni irregolari, considerate più gravi, soprattutto l'invasione delle corsie di emergenza e tutti i comportamamenti che impediscono, diciamo, la fruizione della pubblica via. Dopo il Covid sono un po' esplosi i tavolini all'aperto, l'esigenza di spazi, magari qualcuno se ne è approfittato. Sono aumentate le aree a disposizione negli ultimi anni? Beh, è un fenomeno che abbiamo visto addirittura prima del Covid, grazie appunto anche all'aumento della fruizione dei DEOR, quindi non solo più occupazioni stagionali ma anche annuali, quindi tutto l'anno anche durante l'inverno. Sicuramente sono aumentati gli operatori e quindi le richieste di nuovi DEOR, quindi sicuramente la superficie di tavolini, sedie è aumentata, ma sicuramente ha più cause. Quella del Covid è sicuramente il periodo in cui sono aumentati di più, anche perché c'erano le occupazioni in deroga proprio per agevolare gli operatori in un periodo economico molto difficile. Sicuramente adesso abbiamo la necessità di tornare nei ranghi e nelle occupazioni regolari, proprio per fare in modo che le esigenze economiche degli operatori non confliggano con quelle che sono le esigenze dei residenti e quindi appunto di fruizione delle pubbliche vie. Quanto incassa il comune attualmente dalla tassa di occupazione di suolo pubblico? Beh, sono circa 4 milioni e mezzo, a cui però bisogna, diciamo, considerare anche l'apporto delle occupazioni edili, ma sicuramente c'è un incremento notevole di introito del comune e questo significa che l'economia è comunque florida ed è un fenomeno di cui beneficiano anche tutti i cittadini, proprio perché abbiamo a disposizione un maggior introito anche da parte di chi occupa con i DEOR le strade, le piazze. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una serata di musica per raccontare i 100 anni dell'Università di Trieste, un concerto di musica classica con l'orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, diretta da Giulio Prandi, canta il mezzo soprano Manuela Kuster. Appuntamento in Piazza Verdi, questa sera alle 21, a ingresso libero. Un viaggio musicale attraverso alcune delle tappe più significative del Novecento italiano, con brani che riflettono momenti cruciali della storia dell'Università e della città di Trieste. Si inizia dal Tramonto di Ottorino Respighi, si prosegue con il concerto per archi di Alfredo Casella, poi Festlicher Morgen di Ermanno Wolf Ferrari, Luciano Berio con le folk songs degli anni 60. A chiudere i tre ritratti incompiuti del triestino Fabio Nider, composto nel 2014. Ogni brano sarà presentato da Riccardo Martinelli, docente di filosofie della musica dell'Università di Trieste. Lo abbiamo intervistato. È un percorso interessante, anche un'occasione non frequentissima, quella di ascoltare compositori italiani degli ultimi 100 anni, che vanno in qualche misura in parallelo, quanto alle date di composizione, con alcune importanti tappe della storia del nostro Ateneo, che compie quest'anno il suo centenario. Quindi un'occasione importante, con dei brani che ne accompagnano, per così dire, lo sviluppo e che possono essere letti attraverso diversi fili conduttori. Da un lato c'è una riflessione che tutti questi compositori in misura diversa fanno sul come rinnovare il repertorio della musica nazionale, quindi su come rapportarsi a quella che è la grande tradizione del melodramma, in qualche modo conservandola, ma in qualche modo anche guardando avanti. Secondo lei si tratta di un ascolto facile o per intenditori? Io non credo che sia un ascolto per intenditori. I compositori hanno operato su una tradizione che ci appartiene a tutti, una tradizione che conosciamo benissimo, e dall'altro però anche un'apertura a dimensioni diverse. Faccio soltanto degli esempi. Un autore molto famoso come Luciano Berio è qui rappresentato da dei bellissimi brani intitolati Folk Songs, quindi il titolo è in inglese, ma insomma canzoni popolari, in cui Berio pesca dal repertorio di diverse nazioni e accompagna con una grazia particolare delle canzoni, però che sono canzoni popolari. E adesso il calcio, continua la preparazione dei bianconeri nel ritiro carinziano agli ordini di mister Runjajc, mentre si inseguono le voci di mercato su possibili cessioni. Quinto giorno di ritiro austriaco a Bad Kleinkirchheim, l'Udinese si prepara alla nuova stagione. 34 i giocatori presenti agli ordini di Kostas Runjajc, il mister tedesco di origine croata che ha già fatto vedere di essere molto meticoloso nella preparazione degli allenamenti. Nessun volto nuovo oltre a quelli dello staff tecnico, il cileno Pizarro, verrà presentato alla stampa nel pomeriggio, ma non si allena con il gruppo dopo un'operazione subita qualche mese fa. Da ieri ha raggiunto il gruppo anche Bijol, il centrale difensivo sloveno reduce dall'europeo e al centro del mercato. Su di lui gli occhi di Atalanta, Bologna e Atletico Madrid, superiore ai 15 milioni di euro la richiesta dell'Udinese. Interesse anche per Lovric della Fiorentina e per Samardžić. Per il centrocampista della nazionale serba il prezzo fissato è di 20 milioni di euro. Il Milan sembra l'unico club italiano in grado di poter soddisfare le richieste del giocatore e del club friulano. Sedute di allenamento molto dure in questi giorni, con la rosa divisa oggi in due gruppi per permettere alla squadra una seduta di scarico. L'inglese è la lingua parlata in campo, soprattutto quella utilizzata da Runjajc per dare istruzioni ai suoi giocatori. Il clima naturalmente molto sereno, con una decina di tifosi friulani arrivati qui in ritiro. Sabato pomeriggio alle 16 una nuova amichevole con il Colonia a St. Veit, sempre in Austria. Bad Kleinkirchheim, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno spettacolo per grandi e bambini a Cordenons per il teatro C'era una volta. La compagnia Gli Alcuni sale sul palco con Mistero al museo, un salto nella preistoria alle 21. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Bruno Montevecchi e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 14 sul terzo canale Rai. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. Da Francesca Terranova e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.